Fumo lingotti, che qua è legale. Fumo lingotti, trito biscotti, sembra carnevale. Non posso aspettare con i miei braschi, con le scarpe nuove, con i miei boschi. Facciamo i red dot fra, ma senza le cover. Sgasa sul Range Rover, poi mi sveglio la mattina sull'highway. Gli occhi iniettati di sangue, Rodeo Drive tra le palme, dentro un paio di palme. Baby hai detto che vieni, sto in mezzo al tramonto a Venice. Oggi è più rosa di ieri, dancing with the devil. Californication, Californication. Non mi svegliare ancora presto, sto con lei nel letto. Fumo questa qua, Californication, Californication. Non mi svegliare ancora presto, sto con lei nel letto. Fumo questa qua, Californication, Californication. Non mi svegliare, Californication, Californication. Fumo questa qua, Californication, Californication. Non mi svegliare, Californication, Californication. Fumo questa qua. Sono in questo game dallo 06. Non spengo la play, no, non premo 6. Fra sto patinando, sono a meno 6. Si sto platinando, c'ho tutti i trofei. Vivo in questa wave, sono in Merlo's Place. Parli, non ti sento, sono nello space. Parlano di me, loro sono fake, mirror fake. Fumo London Cake, sto nell'Hall of Fame. Sto con lei, siamo a letto di giorno. Non mi sveglio più da questo sogno. È un mondo perfetto, ristretto in un solo secondo. Un biglietto e non prendo il ritorno. Faremo i soldi senza bolla, tipo white collar. Solo diventeranno dollar sopra una Pontiac, che sarà ancora qui con te, lo stesso me. Mi sentirò un po' come Californication, Californication. Non mi svegliare ancora presto, sto con lei nel letto. Fumo questa qua, Californication, Californication. Non mi svegliare ancora presto, sto con lei nel letto. Fumo questa qua, Californication, Californication. Non mi svegliare, Californication, Californication. Fumo questa qua, Californication, Californication.